La campagna di esposizione delle bandiere della pace a Roma, che è in corso, riprende la campagna che prima della guerra in Iraq ha coinvolto 3 milioni di balconi in tutta Italia. L'esposizione della bandiera arcobaleno è l'esposizione della volontà di pace del popolo italiano, che attualmente, come in passato, rappresenta una volontà di pace ormai maggioritaria. Il 60-70% degli italiani è contro la guerra in Iraq, lo era in passato, lo è oggi, e oggi che c'è Bush a Roma, queste bandiere arcobaleno nei balconi continuano a esprimere questa volontà di pace, una volontà, sottolineo, non violenta.